Il nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, caro Parenzo, bisogna dire subito una cosa. L'unica persona sì, per la quale Grillo è tornato indietro nelle sue dichiarazioni roboanti, chiamiamole così, sì, degli sì, ultimi giorni, che sì, sono andate da Hitler fino alla svastica in fronte a Schulz, cosa che aveva già ripetuto più volte. E beh, l'unica persona a cui ha chiesto scusa si chiama Dudu. Perché quando ha parlato nei giorni scorsi di vivisezione per Dudu, poi a un certo punto ha capito che i cani ce l'hanno tutti e dunque ha detto: no, ma noi vogliamo fare la vivisezione al proprietario di Dudu. Senti questa perlina dal comizio di Verona. Non si sente benissimo, però sentiamo lo stesso. Mille imprese hanno chiuso questo mese e alla fine dice: adesso apriamo il telegiornale con Grillo e Dudu. Ma va a far culo te, Grillo e Dudu. Sono 10 anni che facciamo campagna contro la vivisezione. Siamo in prima linea, abbiamo firmato e porteremo in Europa la nostra campagna anti-vivisezione. Noi non vogliamo vivisezionare Dudu, vogliamo vivisezionare il proprietario di Dudu. È diverso, è molto diverso. Voglio farti sentire una cosa su questo. Ma poi gli diciamo qualcosa. Ma sì, no? più avanti. A me mi ha fatto emozionare in questi comizi. Delle pièce teatrali meravigliose su Schulz, che gli ha dato dello stalinista e lui ha replicato, su Renzi. Sono come delle grandissime performance teatrali. Cosa gli vuoi dire? E questa è la realtà. È così. Ma che vuoi dire? Intanto di cosa ti stupisci? Ma no, ma cosa? Aspetta, Rocco Siffredi, anche ecco, lui è arrabbiato per gli animali. Non arrabbiato per questa storia di Dudu. Senti, si rivolge direttamente a Beppe Grillo. Messaggio per Beppone. Beppe, ma che ti succede? Mamma te lo prendi pure con i cani. Dai Beppe, facciamolo a pezzi. Ma che roba è? Quel povero cagnolino, Dudu, ma che t'ha fatto? Beppe, qui mi hai deluso, Mi raccomando Beppe, se gli viene tolto un pelo a Dudu, io arrivo. Beppe, lo sanno tutti, e ti inculo. Beppe, Una caverna viveva. L'avvertimento di Rocco Siffredi. Si è mobilitato pure il signor Siffredi. La situazione è grave, quando sto caduto. Con i suoi fratellini. A proposito di cani, Berlusconi dice che il cane di Grillo si chiama Delirio. Delirio. Lui in questa violenza è coerente, sa come ha chiamato il cane della sua famiglia? No, questo non lo. Glielo dico io. Delirio. Che forte sei, Dudu, Dudu, Dudu, simpatico Dudu. Siamo qui, la zanzara, 800240024. Berlusconi paragona Grillo adesso anche a Pol Pot. Oh, ma un po' eccessivo. Pol Pot. A scuola andava. Riscontro in lui tutte le caratteristiche dei più terribili e sanguinari protagonisti della storia. Da Robespierre a Stalin, a Pol Pot, allo stesso Hitler. Robespierre, Stalin, Pol Pot, Hitler. Vabbè, Panteone. Spettacolare. Allora, adesso la frase più contestata di Grillo del weekend, quella: io sono oltre Hitler, oltre. Dicono che io sono Hitler, io sono oltre Hitler. Questo l'ho fatto per Rete 4, che lo trasmetteranno dicendo: ecco chi è Grillo, io sono oltre Hitler. Well now, little mosquito, there must be. Ma la polizia è tutta con noi, ce l'abbiamo? Io so che tu consideri questa cosa grave, no? Le forze dell'ordine, i carabinieri, eccetera, eccetera. Beh, oltre che grave. Oh, sempre Grillo, sempre non Grillo, quella di aspetta, Hitler, è una battuta, sì, sempre anche Grillo, divertente se vuoi. Un altro vaffanculo a Schulz, così in scioltezza, sempre Torino. Per esempio la parolaccia. Che parola ci dovevo mettere adesso? Perché la parolaccia è sintesi, è grande cultura, è veicolare un concetto con una velocità. Cosa potevo dire Schulz? Birichino, ma fa il culo, bene, arriva! Arriva! Is there not some beauty in you that I simply can't spot? Well, there is. Well, you're right, son. You see, God love for me. Oh, Moretti, Partito Democratico, votate tutti tranne 5 Stelle, PD, Forza Italia, NCD, eccetera. Alessandra Moretti. Ma se mandiamo in Europa un movimento come il Movimento 5 Stelle, che ha già deciso di non far parte delle quattro famiglie e quindi sarà un non iscritto e non conterà nulla in Europa, perché le regole in Europa sono diverse. Io dico, votate chi volete, PD, Forza Italia, ma votate NCD, votate una forze democratiche che hanno già espresso di affiliarsi delle grandi famiglie e che conteranno in Parlamento. Beh, un esponente del Partito Democratico e dice votate chiunque tranne, sì, Grillo, sì. È proprio lotta e guerra all'ultimo, beh, sangue. In linea con Renzi, no? Abbiamo dice già non votate pagliacci. Però voglio difendere Augusto Minzolini. Allora, Augusto Minzolini contro Renzi. Renzi dice bisogna fare la riforma del Senato proprio perché c'è Minzolini. Cioè no, è l'esempio per cui bisogna fare la riforma del Senato. No, amico mio, no. Almeno Minzolini qualcosa nella sua vita privata, non da politico, nella sua vita privata l'ha fatta. È stato un grande giornalista nella vita privata, no? Nella vita prima di diventare prima di innamorarsi di Berlusconi. È stato un giornalista. È stato un grande giornalista, poi sì, si è innamorato di Berlusconi, è diventato direttore del TG1 ed è diventato senatore. Altra storia. Ma Renzi, prima di fare politico, cosa ha fatto? Questa è la mia cosa. Dunque io difendo Minzolini. Dire la parola servizio pubblico e Minzolini nella stessa frase nuoce gravemente alla salute. Adesso è senatore e quindi questo è, credo, anche per i senatori del PD un ulteriore motivo per andare veloci sulla riforma costituzionale del Senato. L'idea che ci sia Minzolini lì è un incentivo. Siamo qui! Però è divertente, qui. Beh, ma perché è un battutista come Grillo, no, alla fine? No, è un battutista come Grillo! Non l'avevo sentita in modo completo, perché associa, comunque ne parleremo, forse il suo ruolo al servizio pubblico, cioè il suo ruolo di giornalista. Sì, ma lascia perdere, non c'entra niente in questo caso. Pungete, pungete, pungete, ciao! Beppe Grillo chiama a raccolta le forze dell'ordine. Sono tutti con me, poliziotti, carabinieri, finanzieri. Ma per fare cosa? Abbandonate i politici a loro stessi. Via le scorte. La Digos è tutta con noi, la DIA è tutta con noi, i carabinieri sono con noi. Noi facciamo un appello. Basta, non ce la fanno neanche più loro a scortare quella gente lì al supermercato a vedere i festival rock. Noi siamo parte di loro! Siamo parte di loro! Allora, se tu prendi questa cosa letteralmente, è evidente che dici di che stiamo parlando, sono tutti con noi, eccetera, qualche sindacato ha anche protestato. Cosa vuole dire Grillo con questa roba qui? Che le forze dell'ordine vuole dire che più basta con l'eccesso di scorte che c'è in Italia. Vabbè, perché certo, in Italia c'è un eccesso di scorte clamoroso, clamoroso, diciamo la verità, clamoroso. Vero? Questa è la realtà. Questo vuole dire alla fine. Lo dice a modo suo, chiamando a raccolta le forze dell'ordine, che dice non ne possono più, votano tutti con noi, per noi, eccetera. Effettivamente io conosco molti poliziotti che votano Grillo, eh? No, io questo. Sì, sì. Non lo so. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il Papa all'Assemblea della CEI, il paese non cede al catastrofismo, i vescovi, le divisioni deturpano il volto della Chiesa. Renzi, l'Italia guiderà il cambiamento in Europa, cambia chi governa, non chi urla, per le elezioni vede un clima di speranza. Grillo, escalation di insulti, Renzi perderà e per lui è già pronta la lupara bianca, non voglio vivisezionare Dudu ma è il proprietario. La TASI in 12 città sarà più cara dell'IMU, ma in molti comuni aliquota ancora in alto mare, contribuenti in fila ai CAF, ma alle borse spread. Per la strage in Gallura ha fermato un artigiano amico di famiglia, avrebbe agito da solo, il magistrato il bimbo ucciso con modalità atroci. A 3 anni dalla rivoluzione che rovesciò Gheddafi, Libia nel caos, le forze del generale Haftar assaltano il Parlamento ed attaccano Bengasi. 2 anni fa il terremoto in Emilia, oggi sono tante le aziende che hanno riaperto, ma è anche tanto il lavoro da fare superando la burocrazia. Cerchio magico, sono tutte donne, non ne posso più, perché troppe, no? L'altro giorno sono andato in elicottero e io me ne stavo zitto, non c'è stato 10 secondi di silenzio, una cosa incredibile, però l'ho detto e lo ripeto, di magico nella squadra che sta lavorando con me per le elezioni ce n'è uno solo e sono io. Non ne posso più del cerchio magico, tutte donne parlano sempre. Ho l'Alzheimer, non ricordo i nomi. Ho scoperto di avere l'Alzheimer anch'io. Può capitare, come se ne è accorto? Ci sono 4 fasi nell'Alzheimer, la più grave è l'ultima, e che è la aprassia, cioè uno non può curarsi da solo. L'altra è l'afasia, non può parlare. Si è documentato poi anche sull'Alzheimer. La agnostia, non si ricorda di niente, e poi c'è l'amnesia. Lei è la prima fase. Io sono nell'amnesia perché non mi ricordo certe volte i nomi delle persone. Sto riprendendo il progetto per arrivare a 120 anni. Attenti! Voi che volete eliminare Berlusconi, voi che lo volete fuori gioco. 120 anni. Quanti ne mancano? 77, 23, 20, sì. 23 più 43. Altri 40 anni. Beh, cosa pazzesca. Sto riprendendo un disegno di Don Luigi Maria Verzé con cui avevo iniziato a mettere insieme i più grandi geriatri del mondo per studiare il sistema di arrivare a 120 anni con un'ottima qualità di vita. Tommaso, provincia di Taranto, buonasera. La cassa ha paura. Ma di che? Di cosa? Di cosa? Ha paura e sta cercando di infangare il buon Grillo. E guardi, Cruciani, le parla un uomo che per 20 anni ha votato a destra, okay? E hanno avuto tutte le possibilità di fare quello che volevano, se veramente avessero voluto. E dunque? Però sono solo proclami, come al solito. Se lei sente i comizi di 10 anni fa, di 15 anni fa, sì, della destra, di Berlusconi e company, dicono sempre le stesse parole. Su quello non c'è dubbio. Su quello non c'è dubbio. Stanno cercando di dare la dentiera ai pensionati, 1.000 euro alle casalinghe. Ma cioè, è solo pantomima. Questa volta è il caso veramente che gli italiani si sveglino e votino veramente a Grillo, perché ce n'è bisogno, c'è Votare bisogno di un Grillo. Cambiamento. Si devono vergognare, quando un proprietario di partita IVA, un possessore di partita IVA perde il lavoro, non gli danno un centesimo, 50 lire, un centesimo, sì, non c'è per queste persone. Poi? Ed è veramente vergognoso, guardi, le lascio dire vergognoso. Vabbè, poi? Mentre loro hanno imparato a fare i calcolini e a dire che devono prendere lo stipendio paragonato al presidente di corte di Cassazione, ossia 250.000 euro all'anno e così via, e gli stipendi dei manager. Vabbè, Tommaso, abbiamo capito. Sebastiano da Salerno, faccio un appello a Riccardo da Roma, invocato da tutti gli ascoltatori, il suo fans club, fatti vivo, batti un colpo ogni tanto. Ma non abbiamo il numero. Sennò qui mi danno il cordoglio. Sì, vabbè, però deve chiamare lui perché si sente di chiamare lui, altrimenti se lo chiami tu non va bene. Sebastiano da Salerno. Senti di chiamare lui, capito? Si deve sentire lui stimolato a chiamare, capito? Il Riccardo da Roma, perché se non si sente stimolato, è certo. Riccardo, certo. Riccardo. leopardo, certo, da Roma si deve sentire titillato per graziarci di prendere il suo maledetto telefono, chiamare il numero verde, quindi non pagare una lira e fare il suo jacuzzi. Deve sentirsi ispirato, qualunque, certo, deve sentirsi ispirato. Ma c'è chi dubbio. È Caravaggio? È Riccardo da Roma, non è Caravaggio, non è Dante, non è Botticelli, non è Wagner, non è Vivaldi, è Riccardo da Roma, è un signore che dice solo parolacce e cazzate, questo è, si deve ma sentire ispirato, certo. Ma ispirato per dire cosa? Per maltrattare la vecchia lì, la vecchia comunista come la signora Annarella, per darmi conto, deve essere ispirato. Ma vai via, dai, ma vai via, chiudi, chiudi bottega, deve essere ispirato Riccardo da Roma. Sebastiano da Salerno, dai. Oh, ispirato. Ti prego, Riccardo, chiama a questo punto, ti sta prendendo per il culo Sebastiano da Salerno. Deve, certo, è un artista, no. L'artista della parolaccia ha insultato una donna anziana chiamata vecchia, cioè, dice vecchia solo parolacce, è un qualunquista, perché è un qualunquista, allora, è un anticomunista, è viscerale, meno, meno male, e deve, vabbè, questo anche, e deve essere ispirato, poverino, certo. Ma da chi ispira? Deve cadere una trave sulla testa per essere ispirato, deve essere, no, non possiamo chiamarlo, è voluto da tutti gli ascoltatori, il, è voluto, il Picasso, invoca... della Zanzi, il Picasso, capito, che deve essere ispirato, baciato da un raggio di sole, ora lì viene l'ispirazione, per dire cosa? Per dire che cosa? Solo per dare insulti, solo per quello, ispirato. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Allora Luca da Torino ti regalo, fermi tutti, fermo, fermo Sebastiano, Luca da Torino. Ciao. Dimmi, dimmi, veloce. Luca! Dai, su, hai fatto cadere tutto. Ci sentiamo tra un attimo. Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Cioè, ma cazzo, avete distrutto questo paese. Mamma mia, secchie, secchie di merda. Ma vaffanculo, va. Avete distrutto questo paese. Mamma mia, secchie, secchie di merda. Cioè, i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto un cesso, e adesso parlano di meritocrazia, loro. Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Avete distrutto questo paese. Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Avete distrutto questo paese. Loro che hanno diviso l'Italia in due. Ci sono gli statali che non li puoi fare un cazzo, non li puoi licenziare, non li puoi... E adesso, caro Parenzo, ti offro anche il mitologico Paolo, credo, da Firenze. Paolo da Firenze, ascoltatore cult. A seconda della condizione. Paolo da Firenze. Pronto? Paolo, dica. Senta, non deve contraddirmi assolutamente, perché mi innervosisco e sono in cura. Oh, sì, scusi. È in cura dove, scusi? Sono in cura. Dove sono in cura? Scusi. Allora, ascolti bene, sì. Voglio dire a Parenzo alcune cose. Parenzo mi piace sia come uomo che come donna. La premessa di questo intervento, che ovviamente finirà... Certo, lei non mi deve contraddire, deve ascoltare, ma... La premessa è che lei è un uomo in cura! Qualunque roba lei dica, appunto, la premessa è che lei è in cura, lei, capito? Non può interrompermi, no, ha capito? Posso fare... Mi nervosisco! Io... Vada, allora, vada, quello che mi pare. Mi nervosisco, me ne frega un cazzo. Luciani, lo faccia fare zitto, per favore. Studio, diritto alla casa, di nuovo. Siccome politicamente Parenzo non capisce niente, però ho saputo che è informatissimo sulle usanze tribali religiose dell'Africa del Nord. Ma non mi allora, cura, no, io l'ho letto, non mi contraddica. L'ho letto sul sito. Lei, allora, quale sito? Lei ha bisogno, allora, immediatamente di prendere la pillola che oggi ha saltato. Allora, immediatamente. Idiota. Allora, io voglio sapere, sì, perché la circoncisione, sì, ai ragazzi in pubertà nel passaggio poi all'adolescenza nei paesi del Nord Africa questo avviene. Ma in noi tutti che i paesi, ci noi? Meno che in Algeria, ascolti bene. Ma che ascolti bene che cosa? Ma in Algeria, ma cosa dice? Ma in Algeria il ragazzo nella pubertà a 13 anni deve fare un pompino al nonno materno. No, aspetta, è vero. Ma cosa lo chiede a me? Ma che l'Algeria dica? Avete distrutto questo paese. Lei dice, la contraddico perché lei dice solo stupidaggini. No, solo lei stupidaggini. Deve dire. E io la contraddico perché dice stupidaggini, ha capito? La contraddico. Lei mi deve spiegare questa io cosa della Algeria. Non è devo vero? Spiegare. Aspetti, Paolo, allora ricapitoliamo. Cosa succede secondo lei in Algeria? Secondo, in Algeria, al passaggio dalla pubertà all'adolescenza, invece della circoncisione, il maschietto, e non lo dicono e non lo tirano fuori questa cosa schifosa, deve fare un pompino al nonno materno. Paolo, ma lei è in cura per che cosa? Non ho capito per perché tutto, cosa è in cura. Ma per tutto sarà in cura, scusa, sentilo, per tutto è in perché cura. Perché cosa è in cura? Io ho una leggera depressione ossessiva schizofrenica. No, leggera, non è leggera. Depressione non è leggera. Vabbè, secondo me ci sta pigliando per il culo però, sicuro, Paolo da Firenze, dai. Bene, Luca da Torino, qui alla Zanzara, 800-24-00-24. Luca, ciao, Luca. Giuseppe, ciao David, e io sono uno dei seguaci, ragazzi. Dovete chiamarlo, Giuseppe, devi fare di tutto per chiamarlo. Ma seguaci di chi? Scusi, seguaci di Riccardo. Sì, lo vogliamo tutti, David, dai, il numero uno, David. Capisco, seguace di Riccardo. Ma sei seguace di Riccardo, cosa gli vuoi dire? Scusa. No, dico che siamo a pochi giorni delle elezioni europee, i grandi media ma interrogano. Dicono sempre, chi sarà presidente della commissione. Ma presidente della ma chi si interroga? Ci su chi sarà presidente della commissione sul europea? Sul futuro chi? Della moneta unica. Ma chi? E chiama la gente chiedendo al maestro, chiamandolo anche maestro. Cioè, il maestro. E questo è questo che mi manda. Cioè, viviamo in un'epoca in cui il signor Riccardo viene definito maestro. Ecco, questo è un po' la cosa che mi manda i matti. È schietto, dai, è schietto, dice le cose come sta. Poi con te si scorna, per carità. Una volta lo si diceva di Pasolini, che scriveva sul Corriere della Sera. Ora c'è Riccardo da Roma. Vabbè, è la modernità. È questa qui. D'accordo, va bene. Sebastiano da Salerno, buonasera. No, Magris. Dimmi, Sebastiano, dimmi. No, Riccardo. Ah, ok. No, volevo farmi quella frase che aveva detto prima Renzi su Minzolini, che bisognerebbe abolire il Senato per la presenza di Minzolini. Io più che per Minzolini, l'abolire per la presenza di Razzi, cioè un troglodita che non è capace neanche di parlare non italiano. Non mi tocchi Razzi. Ma lei si rende conto di che personaggio? Ho capito, che vuol dire che personaggio? È numero uno Razzi, cioè è diventato un personaggio meraviglioso. Si rende conto che personaggio? Sì, è uno che si è fatto un mazzo così, è entrato in Parlamento con le preferenze in Svizzera. Sì, ha fatto l'operaio, poi è entrato con le preferenze in Svizzera. Ha pescato da Di Pietro. Ma che gli operai finiscono in Parlamento? Sai ma che gli vuoi dire a Razzi? Cosa gli vuoi dire a Razzi? Ci sono tanti operai che continuano a farsi un mazzo così. Qualcuno vota a sinistra. Comunque, Sebastiano sta sulle palle perché è ignorante, perché è troglodita, dice, giusto, Sebastiano? Volevo dire che lui, ve lo ricordate, il filmato di Barbato? No. Il filmato di Barbato, va bene. Allora, lui questa stessa missione ha detto che ha cambiato partito per salvarsi la pensione, certo. È più scandaloso di così. Ma quale scandaloso? Ha detto così, per modo di dire. Comunque, anche se l'avesse detto, almeno è stato così, ha avuto uno slancio di sincerità rispetto a tanti altri che stanno in Parlamento per gli stessi motivi, cioè per la cadrega, per eccetera, e non hanno il coraggio di dirlo. Giorgio, provincia di Monza. Giorgio? Pronto? Sì. Sì, qua. Dimmi, dai, veloce. Allora, visto che la... Hai il viva voce, Francesco da Firenze. Ciao Giuseppe. Allora, dimmi. Chiamo, non sono Paolo, sono Francesco. Sì. Allora, chiamo innanzitutto per solidarizzare con Riccardo, che è un mito, che ha detto in 30 secondi quello che la maggioranza degli ascoltatori della Zanzara pensa di Parenzo e rappresenta calma che la maggior no, parte no, certo è così fidati. E poi, infatti, guarda caso, io prima ho acceso la radio e ho sentito Parenzo che dice sempre peste e corna quando si tratta di simpatizzanti berlusconiani che hanno i soldi, allora si possono permettere tutto. Quando tu, Giuseppe, giustamente hai detto che Veronica potrebbe anche soprassedere, visto che prende uno stipendio. Ma chi c'entra? Ma se ti insultano, anche se prendi tanti soldi, che ma vuol chi dire? Insultano chi? Quello hanno pubblicato no, due ma voto. Il caso non è quello. Ma non hai detto non... come la pensi su questa cosa qua, no, tra l'altro. Infatti, non hai detto come questo, la pensi. Quindi questo, questo fan di Riccardo, una volta figurati c'erano i fan di Pasolini, di Magri, solo c'erano i fan ma di Riccardo, i fan di Riccardo, questo, questo celebro dotato, sottodotato, che chiama dicendosi fan di Riccardo. Ti sta dicendo che sei un celebro dotato? Ma sì, ma non è che è vero, che sente. Tutto, semmai sono dotato sotto e non so come tu eccolo faccia qua, saperlo, ma eccolo comunque, qua, bravo. Comunque non ti permette. Saranno felici a casa allora, saranno felici a casa. Senti, ma non è questo il punto, io appunto saranno felici a casa tua. Anzi, se c'è tua moglie facci chiamare così entriamo nel dettaglio. No, la fidanzata, ecco, no, è lì vicino? Ce l'hai lì? Ce l'hai lì vicino? Comunque non è questo. Il appunto, non c'entra Parenzo, nulla. Rassegnati tu. Maggioranza. Non c'entra, ma la maggioranza non me ne frega nulla. Quelli di Riccardo, ok? Quelli tu sei di Riccardo. Solo rappresenti lo snobismo che è sempre stato sì. Sovraesposto mediaticamente. Sovraesposto ma la maggioranza mediaticamente. Siamo noi. Senti, siamo su Veronica noi. Lario, il fatto che lei prenda quell'ingente indennizzo dall'ex marito non l'ha deciso Cruciani, né io, né Signorini, ma la magistratura, dei giudici in sentenza di separazione. Quindi non c'entra nulla con quello che è stato pubblicato da chi. Non è che se uno sì, è stato riconosciuto. No, no, questo è il punto. Siccome tu hai detto no, io ho con detto tutti che i soldi si... e non c'entra nulla. Io ho detto che potrebbe non stare anche. Non c'entra nulla. Ma vabbè, cosa vuol dire io voglio potrebbe capire stare? Una... Ma io... hai detto una stupidaggine perché ma la magistratura in sentenza di separazione ha definito quel cachet per quell'indennizzo. Ma scusa, quella, pubblicare le foto che sei grasso, dov'è il problema? Se ma tu pensi, se tu pensi che essere grasso la non battuta, è un problema. Ma io la battuta dov'è non penso... il killeraggio? Dov'è io il penso che sia killeraggio. Tu pensi che Signorini sia un killer? Pensi che sia la macchina del fango? No, io pensi che sia un servizio non commissionato. Tutti quei giornali, io penso che quei giornali lì fanno legittimamente politica, uso politico del gossip, perché questo fanno, lo fanno anche bene perché sanno fare bene il loro mestiere e vendono allora... un sacco di copie, ma fanno un uso politico del gossip, quindi uso politico del gossip vuol dire che utilizzano a seconda dei momenti foto, scatti e situazioni per colpire questo o quello, uso politico. Beh, stai dicendo la stessa cosa che è stata killerata da parte no, di Signorini. No, non ho detto killerata perché ma non lascio andare perché nel generico. Caso di Veronica no, ma nel caso perché non è che killeraggio è la di quello Mario, si sta parlando è... di quello. Vabbè. Io avevo un grande stabile e lo dico a voi due d'amico, fatevi cazzi vostri di essere padrone dell'intero universo. Poi malgrado la porta è entrata una zanzara, la zanzara, la zanzara. Oh, siamo qui, caro Parenzo, con Massimo Cacciari. Buonasera, professore. Meno male. Buonasera. Come sta? Buonasera. Beh, insomma, io personalmente non male. Il resto così, diciamo. Buttare, cosa si vede intorno in questa campagna elettorale per le elezioni europee, che in realtà non sembrano nemmeno elezioni europee, perché si parla di tutto tranne certo. Che di Europa, forse giustamente, vabbè, perché per carità sempre dobbiamo, è stato insomma, così sempre è stato così, non bisogna infatti anzi questa volta però il tema è l'Europa, a differenza di altre volte dove proprio di Europa non si parlava. Adesso magari del tutto a vanvera e a sproposito si parla di Europa, di euro, di entrare, uscire, sì, anzi paradossalmente lei dice si parla più di Europa in questa campagna elettorale che in altri momenti. Senza paragone, purtroppo se ne parla che peggio non si potrebbe, in modo che vada dal dilettantistico alla pura demagogia, al non senso, in tutti i modi possibili, forse in modo pacato e razionale. Oggi Grillo se n'è uscito con un'altra delle sue, dopo aver nominato Hitler eccetera eccetera nei giorni scorsi, ha detto, ha parlato di lupara bianca a proposito di Renzi, dice con le sue solite frasi che praticamente scomparirà con la lupara bianca, diciamo. Perderà l'Europa e per lui sarà lupara bianca. Adesso, è evidente che se Renzi dovesse perdere rovinosamente, cioè se ci fosse una situazione di pareggio con Grillo, è chiaro che Renzi scomparirebbe dalla scena. Mi auguro che non sia così. Mi auguro, cioè, che lei dice... ma non per Renzi, che di cui mi ne può fregare in quanto tale, anche di meno. Zero, sì. Ma per il paese, perché non c'è alternativa politica di governo all'attuale, e cioè a Renzi. Cioè, ci sarebbero conseguenze per il governo, lei, cioè, dice, professore. Grillo che diventa il primo partito, che cosa sarebbe per l'Italia? Un disastro pazzesco? È un disastro, un'avventura, ma sa, in una situazione di questo genere le avventure possono essere belle quando si è giovani e forti e sani, ma l'avventura di un organismo scassato come il nostro può essere letale. Mm. Senta, ma le ispira fiducia uno come Casaleggio? Non so se ha visto l'intervista che ha concesso col cappellino, ma per motivi di salute. Dal punto di vista dei discorsi che fa sono rimasticature di tutti i vecchi guru dell'informatica da 30 anni a sta parte. Niente di originale. Ti sentivo fare dei primi profeti dell'internet, del web 30 anni fa. Il discorso è chi più vecchio non potrebbe. E poi lui non è Casaleggio, è Grillo con la sua verve, con la sua retorica, con il suo istrionismo che ha creato sulla base ovviamente di una... Sì. Un disagio disperato del paese che ha creato questo movimento. Però lei non mi pare molto impaurito come molti dell'establishment politico dall'avanzata di Grillo. Cioè, non è che lei dice questi qua sono dei barbari, citano Hitler, vogliono distruggere tutto. Beh, non è che citino Hitler dicendo che vogliono imitarlo. Adesso stiamo no, perché dice sono oltre Hitler. Me la battuta. Sono oltre Hitler, nel senso che non è Hitler, ma sì, poi queste sono le barzellette. Lui sta facendo una campagna forsennata agitando tutti i mal di pancia di questo paese, che sono realissimi e fondatissimi, quindi non è che abbia torto nel denunciare i guasti, le ingiustizie, le ineguaglianze, i casini e la miseria delle forze politiche tradizionali o quasi, eccetera, eccetera. Non è che abbia torto, no? Perché sennò non si capirebbe assolutamente perché la gente gli va dietro. Che ne so, magari il 30% di gente, 27% di gente che lo vota, se lei li considera dei disperati, degli imbecilli, dei pazzi? Ma neanche per sogno, della gente che non ne può più. Alcuni saranno anche veramente disperati, ma altri non ne possono più di chiacchiere, di promesse, di un ceto politico che più miserabile non sarebbe immaginabile. Cioè, tutte queste cose qui vanno pure ragionate, no? Sì, non puoi mica pensare che improvvisamente il 27% degli italiani impazzisce dietro a un comico come i sorci della favola al pifferaio magico, no? Però lei dice non c'è nulla, oltre questo c'è zero, cioè dopo questo non c'è ma non c'è zero, c'è l'avventura. Certo che se Grillo butta a caso, per qualche che io mi auguro di no e penso che non avverrà, ma arriva vicino o addirittura dovesse superare il Partito Democratico, è evidente che si apre una crisi di proporzioni politiche ben difficilmente governabili. Cioè Renzi è finito a quel punto. Anche da un genio della politica come Giorgio Napolitano, ben difficilmente governabile, perché non potrebbe far finta di niente, dovrebbe rimandare ovviamente Renzi alle Camere e apriti cielo, potrebbe succedere di tutto, bisognerebbe vedere come è andato nel frattempo Berlusconi, Alfano, se ce la fanno ancora a tenere, a reggere Renzi è finito, lei dice. Renzi è finito, lei dice. Se Grillo lo supera, Renzi è finito politicamente. Ma è evidente. Allora, pubblicità, torniamo tra un attimo con Massimo Cacciari qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Pronto? E il conduttore? Sì. Pronto? Sì. E il conduttore? Eh sì, per forza è il conduttore. Siamo qui la Zanzara con Massimo Cacciari, in collegamento con noi a pochi giorni dal voto per le elezioni europee. Volevo capire, si è innescata, Cacciari, so che è una cosa minore rispetto al resto, però una piccola guerra in casa berlusconiana dopo la pubblicazione delle foto della signora Veronica Lario sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, con un'intervista della medesima signora Lario al Messaggero in cui ha parlato addirittura di macchina del fango, non temo di invecchiare, per questo mi attaccano. Ma davvero pubblicare le foto di una persona ingrassata, o comunque insomma una persona anche di una certa età ingrassata, secondo lei è un attacco personale, una specie di macchina del fango perché la ex di Berlusconi? Beh, non in quanto tale, ma è chiaro che l'intenzione del giornale nel pubblicare quelle foto era esattamente quella che la signora ha denunciato, non c'è dubbio alcuno. Detto questo, sarebbe finalmente il caso che foto senza l'autorizzazione del fotografato, se permette. Però scusi, no? Cacciari, in questo caso signora Lario non è una persona pubblica, è una persona parapubblica, insomma. Sì. Parapubblica, non è assolutamente pubblica, non è assolutamente pubblica. No, ma Cacciari ha ragione, vale. Vale anche però per i calciatori, per quale motivo io possa essere fotografato dovunque e comunque da chiunque, non mi sfugge completamente la razza. Perché lei è sta, per esempio, se uno vuole fotografare Cacciari, lei è stato sindaco, una persona conosciuta, una persona che è Sì, va bene, ma ci sono dei momenti in cui tu sei lì e ti fotografano evidentemente con la tua autorizzazione. Se sei a un convegno, se sei a una riunione, se sei per strada, non capisco perché siano autorizzati a fotografarti se tu non vuoi. Mi sfugge completamente, cioè è una questione non di educazione, di pura educazione. Nel paese, nel mondo dei maleducati, questa maleducazione di fare una cosa a uno se l'altro non la vuole è prassi, ma è una maleducazione. Uno potrebbe dire è il prezzo grave, ma è perfetta maleducazione. È il prezzo che uno deve pagare, come dire, alla notorietà, il prezzo. Ma che uno... io non sto dicendo che io pago questo prezzo, non pago questo prezzo, sto dicendo chi lo fa è un maleducato. Punto. Cioè, chi lo fa è un maleducato. Quindi i giornali di gossip, questi lavorano e guadagnano un sacco di soldi. Sono sviluppati, sono... Vabbè, guadagneranno un sacco di soldi, non me ne frega niente. Guadagnano ragione, un sacco di soldi malamente, guadagnano un sacco di soldi facendo i maleducati, bene per loro. Ma questa è la mia posizione ed è evidente, logico, che è una posizione del tutto logica. Perché come non faccio a te una cosa che tu non vuoi che sia fatta, ti chiedo il permesso per farla, va bene, così dovrebbero fare costoro, se non lo fanno sono dei maleducati. Cioè, per lei i giornali di gossip potrebbero anche sparire. Sono cose ben più gravi, no, di questa, certo, per certo. Carità. Fosse per lei i giornali di gossip sparirebbero dalla circolazione, diciamo. Ma certamente sì, in un paese civile sparirebbero, se permetti, in un paese civile. Io spero che lei non abbia mai comprato, se no, non so, per ragioni di lavoro, un giornale di gossip. Io sì, diciamo, per ragioni di lavoro. Una persona civile non compra chi? Una persona civile non compra quei giornali, ma è evidente. Cioè, perché lei veramente non ha mai letto chi, lei? Ma mai, assolutamente. Ma guardi, anche per curiosità, guardi che qualche volta è istruttivo. Però, scusami. No, perché ha ragione? No, io quando vado dal parrucchiere, io ammetto questo, quando vado andavo dal barbiere ogni tanto in un barbiere e aveva sempre queste riviste qua e le sfogliavo e le leggevo, questo è vero, sì. Però io voglio dire, se uno vuole conoscere una parte, scherzi, della, certo, società, Cacciari, deve lei una sfogliatina. Ma a chi la società? Ma la società le sembra che siano quelle gli amorazzi o le divisioni, gli sposalizi, le nozze, però è uno spaccato, professore, effettivamente di 100 persone di più o meno di spettacolo di politica, diciamo che c'è quella della società. No, ma la società no, dai. Uno spaccato di società, però uno ma che spaccato in tutto il mondo li vendono, è grattare gli istinti pettegoli, quelli che guardare dal buco della serratura, cioè, ma lei signorini l'ha mai conosciuto? È favorire i peggiori istinti dell'animale uomo. Lei... questo a me non piace, se permette. Dopodiché ci sono, bene. Lei signorini l'ha mai conosciuto? Ma si figuri. Come si figuri? Perché, si potrebbe... Guardi che una persona, io l'altro giorno ci sono stato... È un professore di latino e greco, peraltro. Era. Si vede che il greco e il latino non gli piacevano abbastanza, oppure che non li ha capiti. No, sa che si guadagna leggermente di più facendo quel mestiere lì, le segnalo, professor Cacciari. Cioè, facendo il direttore di chi, eccetera. Però Cacciari ha diritto di disprezzare quei giornali, ma insomma. Ma certo, sarà, ma un per diritto, carità, no? Ma figuriamoci, ognuno ha il diritto di disprezzare qualsiasi cosa. Cioè, ma secondo lei fanno proprio killer nei confronti della signora Lario, c'è stato proprio un killeraggio? Ma che. È chiaro, è un giornale sdraiato su Berlusconi che ha creduto di far piacere al capo e al padrone, sputtanando o cercando o credendo o pensando di sputtanare l'ex signore. C'è una cosa di servilismo totale, insomma. Eh? Una cosa di servilismo totale nei confronti di Berlusconi, forse. Ma oppure neanche, perché poi quando quei giornali lì, quando c'hanno il padrone, poi tra l'altro sono addirittura a volte più fedeli al re del re stesso. Sì, è vero, più realisti del re. Senta, ma qualcuno dice nel Partito Democratico che alla fine è meglio votare Berlusconi tutti i partiti tranne Grillo. Lei li capisce quelli che dicono una cosa del genere? Lei i pagliacci, evitate non lo so, i pagliacci. Chi l'ha detto? Non lo so. Ma diversi esponenti anche. Il Partito Democratico ne dicono tante, quindi non lo so. No, Renzi ha detto evitate i pagliacci. Lei, per esempio, messo di fronte a un'alternativa, chi voterebbe, Berlusconi o Grillo? Francamente, molto semplicemente non andrei a votare. D'accordo, però se uno dovesse scegliere tra almeno peggio, cioè chi per governare questo paese, meglio Berlusconi o meglio Grillo? Ma mi butto dal ponte di Rialto. Come il dilemma di Bertoldo, che qui hanno chiesto a un certo momento a quale albero impiccarsi. Addirittura. Ma qualcuno dice che Berlusconi alla fine... In cui Bertoldo è evitato la morte, no? È stato condannato a morte, ha detto sì, ma però posso scegliere io che albero impiccarmi, sì. E dopodiché li ha portati in giro per qualche anno in cerca dell'albero giusto. Però qualcuno dice alla fine Berlusconi più rientra nell'alveo democratico istituzionale, Grillo invece è una specie... Ma come si fa a scegliere? Cioè, da una parte c'è una persona che bene o male è stata al governo o al potere direttamente, indirettamente per 20 anni e più, combinando solo disastri, o meglio, non combinando assolutamente nulla per evitarli, e dall'altra parte c'hai l'avventura. Sì, cosa sceglierei? Costretto con il mitra puntato, sì, esatto. Non lo so cosa sceglierei, probabilmente sceglierei Grillo alla fine. Addirittura, meglio l'avventura che il disastro già noto. Almeno proviamo una follia nuova, no? Perché le follie già provate, francamente, nauseano. Ma questa campagna elettorale di Berlusconi come la vede? Questa campagna elettorale fatta con promesse di dentiere? Molto moderata, molto tranquilla. D'altra parte moderata. Alternative, perché da una parte non può confondersi con Grillo, se no porta ulteriori voti a Grillo, perché è sempre meglio l'originale della coppia. Come la storia insegna, e dall'altra parte deve tenersi ben stretto Renzi, perché la sua... Per cui non recupera per questo. La sua garanzia per non naufragare, perché se domani si va alle politiche è il naufragio, lui non può presentarsi, chi presenta come candidato premier? Quindi Berlusconi fa una campagna molto, molto moderata, molto... E dunque, ed è per questo che non rimonta, per questo non rimonta nei sondaggi alla fine. Non può rimontare, fa una campagna elettorale del tutto contro la sua natura, no? Non ha più il nemico e non ha più il comunista dall'altra parte, c'è la Democrazia Cristiana, perché il Partito Comunista svolge attualmente il ruolo che negli anni della Prima Repubblica svolgeva la Democrazia Cristiana, quindi come fa ad attaccarla? Quindi è bloccato da quel lato, dall'altro non può confondersi con Grillo. E quindi è una linea di sopravvivenza la sua, non è una linea di... Ma quando se ne va, secondo lei? Oggi dice che vuole campare fino a 120 anni, ha rispolverato Don Berzelio. Io glielo auguro di tutto cuore, sinceramente, di campare anche 150, ma certamente la sua stagione politica è del tutto finita. Senta un attimo, un'ultima cosa, ma mi sovviene per anni, mi scusi se le faccio questa domanda, però alla fine va fatta per la vicenda Lario, per anni hanno spettacolato in maniera assurda su una sua conoscenza. No, ma è vero, mi è venuto in mente in questo momento. Cioè, lei una volta disse che era una follia, non mi ricordo che cos'era sulla vicenda. È un'invenzione totale, non l'ho mai conosciuta la signora Lario. Mai incontrata. Parenzo, pazzesco. Cioè. Ma no, perché fu una battuta stupida, idiota di Berlusconi quando al vertice con lo svedese, mi pare fosse, o il premier. Sì, diceva che la moglie era innamorata di Cacciari. Sì, fu una battuta di Berlusconi. Non... Vabbè. A presto, arrivederci. Arrivederci, professore. Arrivederci. La mi ha chiamato il professor Meluzzi nel frattempo, il mitico professor Meluzzi. Meluzzi, sì. PC, PSI, poi ma che Forza c'entra Italia. PC, PSI? È un nostro amico, ma è stato psicologo, del PC, del PSI, Forza Italia, Italia. Poi anticattolico, poi ora cattolico. Anticattolico, lo stai massacrando. Laicissimo, è stato laicissimo, ora è cattolico. No, ma è Daniele da Salerno, dai, adesso eccolo qua, mi stai chiamando. Meluzzi, è inutile che mi chiami, sono in trasmissione, chiama il centralino oppure ti richiamo io nell'intervallo quando c'è la pubblicità, aspetta. Daniele, buonasera a tutti. Dimmi. Dottor Cruciani, io contesto il fatto di quel monologo che si sente in sottofondo ogni tanto, quella persona che dice che gli statali non vengono licenziati, Allora, io sono dipendente statale da oltre 20 anni e in oltre 20 anni di servizio ho visto buttare fuori più di 10 persone perché il regolamento lo prevede. 20 anni 10 persone mi sembra poco, insomma. Mi sembra poco, francamente, 10 persone in 20 anni, a parte che non lo so, dipende quello che hanno fatto. Le sanzioni disciplinari vanno dalla, da una ammonizione verbale scritta a una pena pecuniaria fino alla destituzione dal, dal corpo. Non è detto che la persona merita di essere destituita, può anche cavarsene con una sospensione da una. Va bene, allora andiamo al sodo. Cosa vuoi dire, Daniele? Non ho capito. No, che non è vero che gli statali non vengono puniti, questo è il problema. Cioè, forse quando succede qualcosa finisce tutto nel dimenticatoio e guarda, io sono della scuola del professor Luttuak. Bisognerebbe gradualmente, con garbo, ma mandare via oltre mezzo milione di statali, così, così mandare via con garbo, facendoli accomodare alla porta piano piano, con garbo, con grande garbo. Un processo pubblico non violento sulla rete. Metteremo le persone, ci sarà un pubblico ministero e sulla rete voteremo caso per caso i giornalisti, voteremo caso per caso i politici e voteremo caso per caso gli imprenditori che hanno disintegrato queste tre categorie e questo paese. Li metteremo online, ognuno darà un responso, darà un'informazione, prenderemo informazioni e poi emetteremo un verdetto virtuale, almeno il diritto di uno sputo virtuale sullo schermo, ce l'abbiamo! È nostra, è noi decidiamo. Che gioco giochiamo, rabbia, violenza, chiamala come ti pare. Andiamo in Europa con 7 punti, non così, a chiuderci nel cesso, come ha detto Tinto, come ha detto Tinto Bass. È bellissima, non è più psiconano, è Tinto Bass. Bene, come ha detto lui, che ci vediamo chi ci metteranno nel cesso, Tinto. Vediamo. Tinto Bass era una battuta tirata fuori dal padre di Di Battista in un'intervista alla Zanzara del settembre del 2010. Tinto Bass. Però. Beh, no, non è male, Tinto Bass. Invece di Tinto Brass, cioè il vecchio sporcaccione, sì, Tinto Brass. Ha fatto di meglio basso, il comico, diciamo, genovese. Senti su, questa dai. Cosa qua sulla Merkel, cosa che nemmeno Berlusconi era arrivato fino all'ebetino che dà due linguate al culone della Merkel. Spettacolare, spettacolare. Quindi noi andiamo lì e non andiamo lì a trattare il fiscal compact come ha fatto Lebettino, che è andato lì a dare due linguate a quel culone tedesco. No, noi andremo lì a dire ganz weigert züge neige Merkel, wie sei ganz für spazieren, spazieren, e il fiscal compact glielo rimettiamo lì in busta sigillato, ne faccia lei quello che vuole. Che parla la gente. Allora, per dirvi che noi qua diremo le stesse cose, sentirete tutti, anche, dicono le stesse cose anche i Fratelli d'Italia, quei tre di Fratelli d'Italia, perché quando li vedo insieme, c'è quello grosso, si chiama? Crosetto, la Meloni e la Rosa, Crosetto, Meloni e la Rosa, cazzo, sembra il circo Barnum, c'è l'uomo più forte del mondo, il nano e la donna barbuta, che è la Rosa. Comincia la festa, ma la festa è nostra e noi decidiamo che gioco giochiamo, rabbia, violenza. Siamo qui, Mustafa da Modena, signor Mustafa, no. Signor Mustafa. Sì, pronto. Dica. Non fai battute. Io volevo intervenire, ho fatto con una persona che non vuole essere neanche contraddita, secondo me è una persona malata, che non può neanche discutere, che ha affermato che la usanza di nordafricani che sarebbe la maggioranza musulmana. No, guardi, però io adesso francamente, ma non bisogna fare l'analisi delle parole di Paolo da Modena. Scusami, non è un'analisi di parole, quella è un'affermazione molto grave, perché i musulmani già non si può neanche mostrare nudi davanti ai parenti, non, figurati che si fa una cosa del genere. l'affermazione molto grave. Vabbè, detto ma da che grave malata, cosa? Ma di che parliamo, no, Paolo, ma si da è offeso, Firenze? Ha ragione, dai, ma su, insomma, scusa un attimo, ma c'è anche un rispetto per la religione, perché se io ma dico che, rispetto, le cristiane, che gli cristiani fanno quelle cose al loro nipoti, come le prende lei? Scusa, ha ragione, ma a me non me ne può fregare di meno. Lei no, ma ha ragione, però è vero. Ma scusa un attimo, una persona credente rimane sì, male. Mustafa, ma stiamo parlando di Paolo da Firenze. No, ma c'è una persona malata, lo posso capire. Ma io spero che sia una persona malata, ma anche di mente, una cosa del genere. Vabbè, Mustafa, grazie. Comunque Tinto, qualcuno dice Tinto basta, nel senso che è truccato, come sì, ma il gioco di parole è chiaramente riferito al regista, scusa. Sì, però Tinto non nel senso di pittato, è Tinto sì, perché è regista. Discutere delle battute è sempre sciocco. Vabbè, perché non si discute delle Giovanni battute. Giovanni da Bari, però... fammi sentire Giovanni da Bari, dai. Parenzio. Oh, Crucia, senti. Dimmi, io giusto un'informazione volevo. Sì, dimmi. Noi stiamo in piena campagna elettorale e stiamo facendo la pubblicità per un condannato in terzo grado, in maniera definitiva. E lo vediamo sempre in televisione, lo sì, sentiamo comunque alla radio. E tu aspetta, fammi parlare. E ti faccio parlare. E tu continui sempre a chiamarlo, continui sempre a nominarlo. Ma quanto cazzo vi paga questo qua, sia a te che agli altri colleghi tuoi? Ma chi paga? Fammi finire, non parlare sempre. E poi volevo giusto un'informazione. Dimmi. Se secondo te è stato giusto quello di vedere Scajola arrestato e senza manette, ma veramente la giustizia è uguale per tutti? Cioè per te devo andare te con le manette, scusa? Sì, senza, perché se arrestano me, mi arrestano con le manette. Dipende. Scajola no. Dipende. E da che cosa? Ma dipende che tipo di arresto è. Da che cosa? Se sei uno che ha appena ammazzato padre, madre, figlio, può darsi che ti becchino con le manette. Se uno viene preso in un albergo e portato in una macchina, è comunque meno male che non ci sono le manette. Non è che certo. A lei fa piacere vedere immagini di gente con le manette? No, assolutamente. E allora? Attento, fammi finire. Mi devi dire che è normale se arrestano qualcuno e mettono le manette per un qualsiasi motivo. Sì, ho capito. Lasciamo stare se è ammazzato. Ma per quale motivo scaiolano? E per quale motivo io devo continuare a sentire sto cazzo di Berlusconi in tutte le televisioni, in tutte le radio, fino a che sono le sue, va bene. Ma tu prendi la moneta da questo qua, tu insieme ai tuoi colleghi. Fammi capire sta cosa, giusto per sentire un po'. No, ma ho capito, ma che vuol dire? Non ho capito. Quale a parte che io non prendo soldi da nessuno. A parte che io non prendo soldi da nessuno, capito Giovanni? Non prendo soldi da nessuno, chiaro? Perché continui a nominarlo sempre? Ma che vuol dire nominare un protagonista della campagna elettorale, Berlusconi? Giovanni, basta. Condannato. E allora, ecco, è il protagonista lo stesso. Non mi dire basta. E che ti devo dire? Basta. E che ti devo dire? Non devi dire, mi devi solo rispondere, se regolare. Ma io rispondo come mi pare, Giovanni. Ma dai, chiudi che forse è meglio, dai. Ma chiudi cosa, Giovanni? Chiudi! Ma chiudi che? È impazzito, Giovanni. Oh, per la prima volta alla Zanzara, caro Parenzo, sono molto contento di ospitare... Sì? Medico di Berlusconi, dermatologo di grande fama al San Raffaele, però adesso ha deciso di candidarsi alle elezioni. Chi glielo fa, io francamente non lo so, cioè, perché la politica di questi tempi è una cosa complicata, bisogna battagliare con le preferenze, coltello tra i denti, un casino pazzesco. Santo Mercuri, buonasera. Buonasera. Come sta? Io sto bene, mi trovo a Catanzaro. E che sta a fare? Perché lei è calabrese, è candidato al sud, per forza. Sono candidato al sud, sono candidato nelle 6 regioni. Ma chi gliele dà i voti a lei? Chi gliele dà i voti, Mercuri? Glielo dico sinceramente. Nessuno. Tutte le persone che mi vogliono bene, che mi conoscono da sempre. Però là ci stanno le cordate al sud, Mercuri. Sì, ci sono le cordate, però io è da 25 anni che faccio il medico giù in Calabria. Vengo una volta al mese perché i miei genitori sono a Giffone. Per cui spera. Qualche rassicurazione gliel'hanno data, ecco, professore? Il cavaliere che l'ha voluta candidare. Nessuna assicurazione. Qua io sto correndo, vado... come dice il presidente, dobbiamo essere missionari di libertà. Vabbè, adesso quindi non esageriamo. A fare una campagna elettorale porta a porta. Ma lei si sente missionario di libertà pure lei? Assolutamente sì. missionario di libertà, su, però uno missionario di ma libertà. Ma fa anche le visite mentre distribuisci i santini, ecco, questo, o no? Questo è interessante. Anche, mi capita anche di fare queste, le visite le faccio con tanto piacere. Se avete bisogno di una visita, a gratis. Paga Parenzo, ve la faccio a tutti. Ma posso venire a Tarrafa? Paga Parenzo un corno, amico Mercurio, però. Scusi, Mercurio. Ma lei si occupa anche di vendita. Se Parenzo ha bisogno di una visita dermatologica, io gliela faccio. Per carità. Hai problemi sulla pelle, Parenzo? No, lo sai che spesso hai malattie venere invece questo allora, no, ma questo il professor Mercurio è perfetto perché è primario. Ma se Parenzo ha una malattia veneria, io lo curo con piacere. No, io ho una dottoressa, una importante, la ringrazio dottore, ma per ora non mi è capitato da molto però, tempo. Però aspetta, diciamo. Qualche piccola macchietta che non la convince, io gliela hai qualche piccola macchietta sul pisellino? Le macchiettine sul pisellino, Parenzo. Però le manderò una foto. No, io comunque una dottoressa, c'è la dottoressa Finzi che in genere è la mia dermatologa di Roma. Ma per carità, ma quale dottoressa? Ma quella bravissima. Sarà una disgraziata. Ma sarà quale? Questo. Guarda che ti ma sarà una disgraziata. Ma sei matto, ma qui c'è il professor Mercuri. La dottoressa Nicole Finzi è la mia dermatologa di riferimento. Ma quale dermatologa? Sarà una tu sei matto! Sarà una truffa. Ma che sei un criminale tu? Oh. Guardi, Parenzo, io se ha bisogno mi può mandare anche una foto, riesco a capire. Hai capito? Ma ancora. Ma perché mi avevi detto, dottore? Dottore, virgola, grazie, virgola, ma no, assolutamente. Però scusa, poco tempo fa, Parenzo, mi avevi detto che c'hai qualche macchietta sul pisello, mi sembra. Mi avevi detto, guarda, mi sono sbagliato la mattina, me l'avevi detto. Qualora ce l'avessi, non saresti la persona con la quale abbiamo un'apparecchiatura con la quale gli posso fare a Parenzo una penoscopia. Vediamo se ci sono. Beh, guardi, ma gliela faccio a Berlusconi la penoscopia, che non ho nessun bisogno io di avere penoscopia. A proposito, lei ha mai fatto una penoscopia a Berlusconi? Ma sicuro che l'ha fatto. In quegli ambienti. Beh, sì, assolutamente. Ma è sano come un pesce, ha una pelle di un bambino di 15 anni, un ragazzino di 15 ma anni. Ma davvero sta dicendo, professore? Assolutamente sì, guarda, un'età biologica molto 30 ma anni ha fatto di dei lifting o no? Perché almeno qualche cosa ha fatto, si può dire, non è un diciamo delitto. La verità, non è un delitto. Assolutamente, guardi, io non so niente. Guarda. Vabbè, non sa niente. Non sa niente. Ma che medico è, amico mio, se non mi sa confermare se ha fatto c'è un segreto professionale. Questo è vero, questo è vero. Questo è vero, questo è vero. Questo bisogna dirlo. Se ci dicesse, Berlusconi ha fatto un ritocchino qui, sarebbe grave, diciamo la verità. Però l'ha fatto. Noi, guardi, noi sappiamo. Il segreto professionale è assolutamente va celato. Però vi voglio dire solamente una cosa. La pelle, come ce l'ha la pelle? Berlusconi c'ha una pelle, una bellissima pelle, guardi. Beh, guardate. Ed è molto. Ha una pelle, tra l'altro, con un'età biologica molto inferiore di quella che 30 anni di meno? Assolutamente sì, guarda. È una pelle di un bambino di 15 anni. Ha un rinnovamento cellulare eccezionale. Però scusi, professore, mi potete credere, guarda. No, io per carità, non dico, però le foto che sono apparse per esempio su quella rivista tedesca, non mi ricordo, inglese, scusi, ma che io cosa? Secondo me quelle foto sono apparse con una luce particolare. Ah, la luce, Non mi ricordo si dice di sempre aver così. Mai visto il presidente con quelle rughe così accentuate. Si dice sempre così, era la luce, era la ma guardi che non c'è niente di male, c'ha 76 anni quello che ha, presidente, è giusto che abbia quella faccia. Li porta Parenzo in maniera eccezionale, io lo posso garantire. Allora, no, però sorge qualche sospetto, anche. Professore, perché lei è specializzata in dermatologia e venerologia. Ora, possibile mai che il presidente Berlusconi, lei da quanti anni lo conosce? Da quanti anni lo conosce? Da più di 15 anni. Da più di 15 anni. Non abbia mai avuto un piccolissimo problema di tipo venereo, data la sua notoria, come dire, attività. Guardi, negli ultimi anni? Io glielo posso garantire, problemi veneri il presidente non ne ha mai avuto, lo posso anche sottoscrivere, assolutamente. Vabbè, un piccolissimo problema, non è candida. Ma no, se vengono dubbi, anche a lei, naturalmente, se le viene un dubbio, io la visito. Però scusi, professore, io devo dire la verità, io faccio sesso molto protetto. Molto protetto. E questa è una cosa molto positiva. È bravissimo. È molto positivo. Perché ho rispetto sia per lei e anche per la persona con cui vesti. Assolutamente. Però Berlusconi una volta disse che non usava niente. Però vabbè. E questo non lo so perché l'abitudine sessuale del presidente mica le conosce. Non le conosce. Sono il suo dermatologo, ma non. Ecco, per esempio, sulla abitudini sessuali. Assolutamente. Però è anche esperti in venerologia. Ma senta, ma la gente oggi prende un sacco di roba. Cioè, a prescindere da Berlusconi, è vero o no? Che la gente prende un sacco è di roba. Vero, è vero che la gente prende un sacco di roba. C'è vero e poi non c'è l'abitudine a fare sesso protetto. Infatti questo è un casino, è un gran casino. L'unico modo per proteggersi da malattie che non è solamente l'AIDS, anche l'epatite, ci sono anche numerosissime altre malattie veneree. Guardi, le dirò una cosa, anche la sifilide, non stavo vedendo la sifilide. La sifilide. Assolutamente sì. Assolutamente. Ma veramente? Sì. Guardi, le racconto una cosa. Mi dica. Ero una volta in un taxi, questo lo posso raccontare. Sì, il tassista mi dice: guardi, io dice, ha sentito per telefono che stavo rispondendo a un mio paziente, ha capito che ero medico, sì. E è la mia specializzazione. Mi fa, ma dice, ma lei è dermatologo? Ho detto sì, sono dermatologo. Dice, guardi, mi è successa una cosa, dice, avevo una lesione, sì. Mi è passata, però adesso ho un linfonodo ingrossato. Questo signore aveva la sifilide. La sifilide, e come si era presa? Mignotte? Non lo so con chi era andato, ma sicuramente sì, anche perché chiaramente le signore della notte, che tra l'altro arrivano da tutti, da tutto il mondo, arrivano in Italia, certo. E allora portano questi tipi di malattie. Ma per cui l'immigrazione clandestina sta portando anche la sifilide, secondo lei? Assolutamente sì, assolutamente pure. Sì. Ma, quindi è importante, importantissimo, proteggersi. Allora, è un mito, una leggenda, molto simpatico, avete sentito, Santo Raffaele Mercuri, calabrese doc, il medico dermatologo, sì. Di Berlusconi, candidato europeo, quello, vabbè, tra parentesi la mettiamo. Tra poco, dopo la pubblicità, ricominciamo. Ronda, ronda, ronda, se va bene, ronda. Abbiamo un'apparecchiatura con la quale gli posso fare apparenza una penoscopia. Vediamo se ci sono delle lesioni sospette. Oh, nessuna caro Parenzo, lesione. Siamo pronti a questa penoscopia, professor. Ma secondo me Parenzo dice di non avere niente, ma chi secondo me qualcosina ce l'ha. Qualcosina, guardi, poi io sono dell'idea. Io non so dove ha studiato lei, mi pare Euro Disney. No, che Euro Disney? Ma ha studiato che... Euro Disney, se scusami, io, no, gli ho chiesto una roba diretta, il professore me non mi ha mai visitato. No, però scusa, primo. Il professore parte da un presupposto che alla fine qualcosa c'è sempre, no, professore, da ma questo punto voi che si trova. Ma sempre. Voi che avete, voi, lei non lo so, professore, chi ha una vita promiscua come Cruciani, ma quale dichiarata? Promiscua? Che c'è? Molto promiscua, ma va benissimo. Lei non è sposato, è un problema. Professore? Ma io sono chi ha una vita come la tua? Due figli. È regolare, sì, tradimenti, cose. Regolarissimo, no, tradimenti niente, guarda. Vabbè. Ma poi col mestiere che faccio, vabbè, con che tutte queste malattie che vedo, secondo lei mi conviene fare sì, tradimento? Pure questo è vero. Pure questo. Mi passa la voglia, guardi. Pure questo è vero. Però lei ci ha ragguagliato sul ritorno della sifilide, che è una cosa molto seria in realtà. Assolutamente. Però io torniamo a Berlusconi un attimo, che non c'entra niente sì. con la sifilide, ovviamente. Assolutamente. Ma la pelle, no? La pelle. In tanti anni che lei ha visitato Berlusconi, cosa ha notato nella pelle di Berlusconi? Cioè, perché è stato chiamato adesso, senza violare il segreto professionale, per carità? Io guardi, io penso per delle. Sono stato chiamato per, chiaramente per motivi dermatologici, ma non li posso dire perché c'è un segreto professionale. Ah, certo, per non forza. Sono motivi dermatologici assolutamente gravi, le lesioni che voleva controllare per un controllo di NEI, fatture sì. regolarmente, la mappatura di NEI, sì. fa controllo, vengono fuori delle lesioni come a tutti, delle allergie, certo. Ma qualche tiratina, però si vede che c'è qualche tiratina, cioè si vede, qualche siliconatina, qualche punturina si è fatta, dai, su, questo si sa, qualche punturina. Prevedibile. Io non ho detto niente, lei l'ha detto. No, io l'ho, qualche punturino, ormai lo fanno tutti, punturino. Qualche botulino, che ne so io. Ma sì. Cruciani, ma lei vuole fatta qualche punturina a lei? Io la faccio. No, perché io, guardi, lo sa che... le posso fare anche un po' di botulino. Ma lo sa, professor Mercurio, sa che guarda che aumenta il suo sex appeal. Lei dice. Io la faccio una punturina. Ma Berlusconi ha aumentato il suo sex appeal? Ah, io non lo so perché non gliel'ho mai fatte. Non, so. Non si riesce a fregare il professor Mercuri, i professori. Senta, che rapporto c'è tra lei e il professor Zangrillo? Cioè, come vi organizzate? Lei e il professor Zangrillo? Cioè, il professor Zangrillo è un mio carissimo amico, Alberto Zangrillo. Oltre ad essere un grande professionista, sì. è un mio amico, assolutamente. Comunque sì. La pelle di Berlusconi... È una persona estremamente disponibile. Sì. E poi, sì, è una persona estremamente disponibile. Ci mancherebbe. Con vabbè, tutti quello... proprio. Quello, anche quello. Con un metalmeccanico della Fiom. Vabbè, ma quello sì, cioè, quello invece guardi, ti sbagli. Ti sbagli. Anche con lei. No, però io lo so. Le... Io ogni tanto... Visto che però il professor Zangrillo si occupa di anestesia e rianimazione, meglio non averci a che fare. No, beh. Ma infatti Cruciani ogni tanto ci va, un capito? Un controllino si può fare. Però no, Parenzo, vai a farti fare un controllo al professor Mercurio. Io la prossima volta, adesso che ho scoperto che lui è anche si occupa anche, come dire, di... Sa che mio zio è ancora un grande urologo, per cui in parte le cose si incrociano. No? Però no, si incrociano tanto. Quando ho bisogno andrò dal professor Mercuri. Assolutamente. Uguale, d'accordo. Le posso dire una cosa, Parenzo? Posso dirle che non ne ho bisogno? Sì. Guardi che in Italia ancora ci sono tanti tabù, soprattutto per le malattie trasmesse sessualmente. Cioè, questo tabù. È vero. Cioè, la gente te lo dice a te, però, questo, vedi? Si vergogna di essere visitata. La gente si vergogna di essere visitata, ma lo sta dicendo a te questo, le malattie... perché conosce il mistero. No, ma cosa perché sei? Lo sta dicendo a me? Non perché è vero, sa ma... che sei promiscuo, ma questo ma non male. È vero. Beh, non è vero, professore. Ma la gente si scatena. Professore, come scusi vero, un attimo, le chiedo un'altra cosa, ma queste malattie sono diffuse molto, per esempio, vedi tra gli omosessuali? Sei interessato. No, no, sono diffuse in tutta la popolazione, mica solo gli omosessuali. Però anche gli omosessuali. È una leggenda, anche, ma è una leggenda che sono gli omosessuali. È diffusa proprio su tutta la popolazione. È un casino. Questa sia roba... etero che uomo. Questa roba qui. Questa roba qui è un casino, eh? È veramente un casino. È un casino, guardi che noi facciamo numerosissimi interventi, sì, con il laser, utilizziamo, sì, tantissimo il laser. Che fate con il laser? Oddio, oddio, che orrore. Che succede orrore, con il laser? Purtroppo però... Il laser sul pisello è una cosa terribile. Sì, sì, sì, è bruttissimo. Ma ti appassiona, mi pare. Perché è un organo molto sensibile. Ah, su questo non c'è dubbio? Fare, e quindi molto, sono anche... interventini molto dolorosi. Ecco, ma quante volte ha visitato il pisello di Berlusconi lei? Scusi, vabbè, se io lo chiedo direttamente. Manco una volta. Ma sì, manco una volta. Dal punto di vista è sanissimo, guarda. Ah, è sanissimo. È sanissimo. Ma veramente è in grado di fare l'amore senza nulla? Senza aiutino? Ma questo lo dobbiamo chiedere al presidente, se è in grado di fare l'amore senza nulla o no. Io penso che saranno... motivi saranno problemi del presidente. Sì, io beh, certo. Questa cosa qua non entro assolutamente in non me. Entra. Non entriamo, per carità, non entriamo. I capelli come vanno invece, la dermatologia dei capelli? La dermatologia dei capelli, noi abbiamo, guardi, siamo un centro di... No, sempre il presidente, sempre il presidente, sto dicendo. Se ne occupa lei della questione dermatologica, si occupa pure della... Io mi occupo di tutto quello che il presidente mi chiede che riguarda la mia specializzazione. Ma i capelli, per esempio, come la sono? La mia specializzazione riguarda anche la tricologia. La tricologia, ma che succede lì? Cioè... sei impiantato... Non ha neanche un capello bianco, pazzesco. Ce li ha i capelli. Ma neanche uno bianco, è pazzesco però. Ma sì, per certo che non ce l'ha bianchi, non ce li hai, si è fatto fare il trapianto, no? E che ne sai? Un piccolo trapianto, o sbaglio? Non lo so, non si può dire, vabbè. No, no, questo si può dire perché c'era scritto su tutti i giornali, quindi... Sì, si è fatto un trapianto. Ma neanche un capello bianco poi c'ha, eh? Beh, certo, uno non è che si fa il trapianto con i capelli bianchi, pare, è normale, no? Cioè, ah, quindi saranno sempre scuri, saranno? Ma qualcuno, per esempio, Pippo Baudo a noi ci ha detto che... Vedi. Pippo Baudo a noi ha detto che sarebbe molto affascinante con i capelli bianchi Berlusconi, lei non ci crede, professore? No. Ma io, secondo me, guardi, questo è, i capelli, un po' di capelli bianchi, secondo me non stanno male a nessuno. Non stanno male, gliela perché aumentano il fascino di una persona. Gliela consigliati pure al presidente, no? No, non abbiamo mai parlato di questo argomento. Comunque mi sa che se avete bisogno anche voi per la caduta dei capelli. Parenzo, io non ho bisogno. Parenzo, guardi, caro il mio dottore, lei ha mai io ho 38 anni, non ho bisogno di un cavolo, amico mio, però. Ma perché? Le mando il regalo, due scatole di pillole che le faccio crescere i capelli. Parenzo. Ma le pillole non mi servono. Ma lei non ha visto le mie foto? Non mi servono, non è per vero, ora. Non è vero. Il 48enne è quel signore che sta a Milano che si chiama Cruciani, che ha malattie venere, ma che non ha è vero. Rapporti ma promiscui, ma non che è fa, vero, no, che nulla. Fa porcherie. No, e lui Cruciani, ha bisogno di lei. Le pillole sicuro. Gliele posso regalare anche a lei. 48 anni. No, ma io i capelli 36, per adesso va 38. Bene. Un'ultima cosa, professore, che mi appassiona molto come argomento. È vero che ci sono persone che chiedono operazioni di allungamento del pene? Ah, vedi che ti interessa. Guardi, allora. Queste non le faccio io, non me ne occupo io. Queste non me ne occupo io, questi sì. Sono interventi. Magari il suo zio mi ha detto che fa urologia. Ah, gli urologi. Sono ma nemmeno gli urologi, ma gli andrologi. Che sono degli orologi che hanno una super specializzazione in andrologia. Ho capito. Sì, comunque, sì, so che la professore, gente lei per pigliare più voti lo sai che deve fare? Deve promettere delle cose pazzesche. Quando va casa per casa, deve promettere visite. Non può fare cura, delle visite gratis. Cura però, dalla. Dai. Cura guardi, Cruciani, io ho visitato dappertutto, glielo posso garantire. Ho visitato quando mi si chiede la mia professionalità, io se te posso fare una cortesia la faccio. Però, ma come fa a bussare, scusi, professore, però... elettorale, ho scritto? Che vorrei essere disponibile da politico così come lo sono stato da medico, perché sono sempre stato disponibile. Vabbè, quello chissà, ci stanno e le non lo dico per una questione elettorale. Ci stanno le cordate, professore, lì ormai è tutto deciso, là al sud è tutto deciso. Comunque, un santino e una visita gratis. Vedi, vedi suggerimenti. Sono d'accordo pure. Professore, sono d'accordo, ma non si fa. A presto, professore. La ringrazio, Cruciani. Buona serata. Zanzara! Marco da Lecco, buonasera. Marco, poi Ivano da Trento. Marco, credo di essere io. Sì, vai, vai, sono Marco. Da Como. Da Como, uguale, volevo dire, basta sentir dire queste cagate che sono i clandestini che portano le malattie sessuali. E che ne bravo, il professore l'ha detto. Sessualmente. Bravo. Perché la gente che non usa il preservativo quando va a prostitute, che poi si trasmette la malattia l'una con l'altra, basta una feritina per attaccare tutte quelle cose. Ma sì, ma certo, poi, non c'è dubbio. Io mi occupo di immigrazione, sì. Ho un ambulatorio medico dove vengono dei medici, e un convegno ho sentito dire che l'età delle malattie sessualmente trasmissibili è sotto i 18 anni e sopra i 50. Sì, dunque? E quindi, quindi queste cose qua sono i rapporti promiscui che indipendenti la gente chiede. Dai, lei è un santo perché chiede la protezione quando va con le sue compagne. La richiesta è stata accettata. La scabbia è una malattia vecchia come il mondo e segue la povertà. L'HIV si sa perché viene contratto l'HIV. Sulla TBC ci sono stati dei test, la positività ai test non vuol dire poi dopo che uno sia portatore di tubercolosi. Un attimo. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto, dottoressa Cancellieri? Di chi parla? Sono Cruciani. Oddio, santo Cruciani cielo, e Parenzo. Cruciani e Parenzo, vabbè. Come sta? Come sta? Siamo alla grande, si figuri, sono a cena, ho la bocca piena. Ma l'abbiamo disturbata? Ma no, si figuri, stavo a cena con la bocca piena e compagnia di cari amici, è stata una giornata particolarmente faticosa. Ma faticosa di che? Fa più niente lei, dottoressa Cancellieri. Ma lei sta scherzando, guarda che proprio ieri sono tornata alla vita mondana. E quale vita mondana? Vita mondana, ho fatto una cosa molto importante. Cioè? C'è un nuovo incarico politico, cosa? Ma no, che incarico politico? Ho aperto un'osteria. Un'osteria, Parenzo? Osteria. Un'osteria, ma dove? A Bello Mio, a Centocelle. E dove vuole la bella? Pensi a sto svuotacarceri che non decolla. E quindi qualcuno deve pure darsi da fare. Vabbè, ma come si chiama questo locale? Scusi? La gatta buia. Ma come la gatta buia? Lasci vedere, io alla gatta buia propongo piatti tipici da Galera. Ma questa è una cosa assurda, un ex ministro della giustizia che apre un locale che si chiama gatta buia, dai. No, bisogna pure darsi da fare, vabbè. Un periodo di crisi. Ma ci faccia un esempio un po' dei piatti che ci sono. Allora, per esempio, preparo un piatto che è veramente meraviglioso, dovrebbe venire approvato pure lei con Parenzo. I tonnarelli alla matacena. Ma non è possibile. Alla matacena. Vai, ministro, su, è? I tonnarelli alla matacena. Ma come si fa? No, saranno la matriciana, no? La matacena. Ma no, ma che matriciana, Cruciani? Queste sono cose obsolete. Alla matacena. Ma quello è un latitante. Ma non lasci perdere, il piatto tipico di Dubai, molto amato peraltro dall'ex ministro Scajola. Vabbè, ma pensi che curiosità, la prima volta che l'ha mangiato qualcuno gli ha pagato pure il piatto, lui non ne sapeva nulla. Ma lei adesso la curiosità. Sì, ho capito, ma adesso sta pigliando per il culo gente che è in galera. Ma no, ma ci va che non mi permetterei l'osata, ex ministro. Comunque la Roma non mi permetterei mai. Ma come no, si è permessa. La Roma, 3 sconfitte consecutive, ha chiuso malissimo il campionato, ministro, com'è? Senta, ma lei avrà letto delle critiche, tipo il solito atteggiamento tendenzioso di una certa stampa grillina. Ma non c'è nessuna stampa grillina. Ma come qua? No? Sì, ma sai, il finale di campionato, ormai lo scudetto se n'è andato, purtroppo. E comunque a Roma non si discute. A Roma si ama e basta. Roma, Roma. E magari mi portano pure De Rossi, magari mi portano com'è pure che Garzia. Com'è Roma, figlio, Roma? Perché noi in osteria. Roma, Roma, Roma, com'è? Sì, sì, vabbè, questo è la mia canzone preferita. Di rilassarmi, Roma, Roma, Roma, che meraviglia. Arrivederci, ministro, arrivederci. Buonanotte, venga a trovarmi, venga a trovarmi. Verrò al locale. Che tristezza che mi fanno queste persone, ex ministri che poi, finiscono così, aprono un ristorante con dei piatti assurdi. Per me è una cosa indegna, comunque. Ivano da Trento, dai. Ah, buonasera Gentaglia, buonasera. Beh, Gentaglia un po'. Voi due siete proprio due figli di Jenny La Carogna, Sì, dice. Che vi devo dire? Certo che tu, Cruciani, quando si tratta di culi, tette, prostitute, troie, ci sei un po' morboso, eh? Sì, dice, Devo dirti. Dice, E quell'altro di, come si chiama, quello con te, quel... Parenzo, sì, Parenzo. Sì, Parenzo, sì. Parenzo, sì. Lui è già un po' più radical chic, dai, devo dirti la sincera verità. Radical chic. Non se ne può più di questa trasmissione qua. Dovete un attimino anche far intervenire di più la gente, far litigare. Ma se interviene insomma, sempre di più, ma se interviene se gente come lei, Ivano, se interviene gente come lei, cosa si può fare di più che mandare in onda gente come lei? Cosa si può fare di più? Si è formata una nuova coppia nel firmamento della politica italiana. Mario Borghezio, Alfonso Luigi Marra, non ci puoi credere, l'ex amico, l'avvocato amico di Sara Tommasi, quello che si batte contro il signoraggio, il dominio delle banche. Ma che cazzo fai là, Parenzo, che si sente il rumore? Sto smontando lo studio. E dai, senti, senti, contro il signoraggio con Marra. In queste elezioni mi presento candidato per le europee nella circoscrizione Italia Centro. Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Ho inteso cogliere questa occasione per lanciare una grande sfida contro le troppe tasse, contro soprattutto il signoraggio delle banche e quindi anche contro il Bilderberg. Per questo motivo ho incontrato il massimo esperto. Contro il Bilderberg, arrestare Monti e Letta, Renzi burattino del Bilderberg. Il Bilderberg è la forza che ha eletto Monti, che ha eletto Letta, che sono tutti e due formalmente tesserati di questa organizzazione criminale. Io mi auguro che siano arrestati perché si tratta di reati. Ed è anche l'organizzazione che ha eletto, come si chiama? Renzi. Ma poi che è successo? Sono arrivate delle persone? No, non è arrivato nessuno, nessuno. Non è arrivato nessuno, no. Strano. Non è arrivato nessuno. Strano, strano. La nuova coppia Marra Borghezio. Vogliono arrestare Monti, Letta e pure Renzi perché è burattino del Bilderberg. Ci sentiamo domani, eh. Mi raccomando, Beppe, se gli viene tolto un pelo a Dudù, io arrivo. Beppe, lo sanno tutti, e ti inculo. Beppe, eh? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Pungete, pungete, pungete. Ciao. Radio 24. La passione si sente.